dico da disturbarne, però quando ci sono i segnali bassi già si sente un pochettino il fischiettino tuo sotto, quelli vicini almeno, se sei sul 15 un paio di canali ti sento ancora, sono quando fischi. E Luca, io quando te arrivo invece? Vai! Hola! 935. Quindi sono sempre un po' più forte di lui, dai, sai che non ci puoi fare niente, dai. Non c'è problema, è importante sentirci, ci mancherebbe altro. Nella potenza va anche arrivare gare, ma anche problemi ci sono, ma la dice. Dai, visto che stiamo uscendo in FM con 100 mW, figurati quanto mi la puttiamo della potenza. Ma, anche se sono come scene, sono come scene la regalia che tira in casa, altro che per questa, Fatti, sono fatto. Vabbè, aspetta, io sto usando bassa potenza, Aspetta che mi sollevo, è freddo, dai, quanto arrivo? 9:20, ci arrivo, Luca. Posso far niente, sì, uguale. Luca. Via. Guardami questo segnale, da così? Fai vedere che non avevo stazionato. Ecco, ma vabbè, mi abbasso tutto, quindi che c'è stato, non mi frega niente, Roberto. Ci sono, eh? Aspetta che sono un vatto e mezzo. Sempre il segnale, va bene così, Luca? Aspetta che abbassi io qua, sotto qua, aspetta. No, già zero l'ho messo. Allora così sì. Sì, sì, ci sono, mi senti? Fanno Roberto. Che è fuori centratura, Franché, centrami a me, 1, 2, 3, prova radio, attenzione, Franchetto, se copi questa stazione, prova a centrarmi, cambio. Io non sto provando, sono in B, ma sei fuori frequenza, eh? A 505 andiamo, Luca, se no non ci trova. Luca, dai. Ci sei, Franchetto? No, sei fuori lo stesso, siamo a 26505, ma sei in FM, hai messo in AM tu, guarda, controlla. Franché, ci sei? Sei sicuro? Franché? Parla che ti centro io, dai, parla, e poi ve lo dico, rimanete voi, vi dico la frequenza, roba. Avanti, Franché, parla. Chi sei, Franché? Sono Ma continua a parlare che ti voglio sentire nel centrale. Ma siete a 510? Sì, sì, Luca, sono 510, ma te ti sento benissimo, non mi sembra strano, sono al microfono, boh. Ma vabbè, bene, sto uscendo. Stavando ti sento bene a 507. 507, sì. E a Luca, a Roberto a 507, come lo senti? Prova a rimanere a 507, parla a Roberto. Io sono a 510 e ti ascolto perfettamente, il mio è allineato, non ci sono problemi, anche con il Salvatore sono stati spediti insieme, non vorrei ci sia qualche problemino nel tuo, ma non è che c'hai il rito inserito, no? Ah, so cosa è, io avevo capito, 500.10, non c'è 510. 510, eh. Oh, lo sento bene, va Salvato. Caffa, Luca, Va Salvato, parla. Cappa, 1, 2, 3, prova, sì, dovremmo... l'altro giorno era perfetto, sembravamo al telefono, anche Roberto sento bene, bene veramente, sta uscendo bene con la radio, Roberto, complimenti. E beh, lui, va bene? Sì, certo, avevo capito male io. Il mio era 500.10, capito come ti sentivo male. Infatti poi sono salito col fine, col... come si chiama? Vabbè, era la stazione lì, sai, no, la manopola. E che c'è entrato meglio, eh? Ti ascolto benissimo. Salvatore. Sì. E a me come mi occupi? Perfettamente, molto meglio della M, io la FM la preferisco, sento più fedeltà della FM, quando possiamo con Roberto ce ne passiamo sempre qua, quindi io preferisco anche perché metto basse potenze, mettiamo, adesso l'ho sollevato la potenza perché lui c'ha l'attenuatore, ma posso scendere, quanto sono con l'attenuatore? Con l'attenuatore 6,9 è spaccato. Io sto uscendo con un watt e mezzo in questo momento qua. Vabbè. Sì, devi farmi. E io come ti arrivo lì? Fondo scala, sì, ma tu ti ho detto fammi il favore, però se non mi rovino la parete, non ve lo voglio rovinare. Metti di minima potenza, perché non c'è bisogno tanto. Ma deve essere al minimo. Ma lascia al minimo, non sollevare, perché c'ho già la telefonata, le stai arrivando 20 dB, quindi sei quasi 9,80. Fate un conto, è inutile tanto, perché se sollevi poco a poco mi arrivi lo smitter si inchioda e me lo rompo. Ma così va bene? Sì, se fondo scala non c'è problema. Luca, vedi un po', tu fammi sentire. Guarda, sono a 0 di watt, 5 watt, diciamo di meno anche 5. Tu sei un po' più di 9,60, adesso voglio provare la 12 in FM che non l'ho mai provato, così mi date un confronto con questo. Ma io qua non crepados, domani è venerdì. Allora Luca, lo vuoi questo Galaxy Pluto? Io sto aspettando, cos'è la cosa? Stazione radio. Sto aspettando la tua risposta, la tua chiamata. Non so per quanto è la cifra. Ma me ne sono dimenticato, ormai ti chiamo Roberto, domani mi ha detto, mi hai messo l'ho quattro, l'ho visto qua e me ne sono dimenticato. Domani ti chiamo Luca, così te lo dico. Ma torno con due microfoni mi. Ti do il quello da tavolo, il Selta Plus, il Selta Bravo Plus. E l'altro lo conosci. E l'altro è un cos'è? Un ZG L93. Quindi, tutti e due amplificati. Da 93, non morire. No. Per carità, che microfono brutto, ma. No, non mi piace il microfono. Ho regalato il microfono. No, proprio non esce male. Ci rifà un bel lavoretto, quindi stai dentro un... come si dice, roba di cambio la capsula. E poi gli fai... se la copri bene, non so, bruco cottone, non so quanto esce bene. Se no, ma lo scherzo mi fa fare una strada, va. Oh Luca, Luia. Ah, memorizzate Luca, Salvatore Franchetto, questo è il 60, 1, 2, 3, prova radio, adesso immediatamente rimetto l'altro, mi dite un po' chi è meglio. Vai. E poi Luca, facciamo questo controllo e poi ti faccio sentire quella, ti faccio sentire le... il Galaxy FM con quel microfono, guarda che va bene quel microfono, abbinato al Galaxy esce bene, aspetta poi te lo faccio sentire, Robert vai. Allora questo è la Nunes, 1, 2, 3 prova radio, sono un po' raffreddato per cui sicuramente manterranno un po' gli acuti, ma anche nell'altro. No, preferisco l'MC60, troppo cupo questo. Sì, infatti, poi insomma non è che c'è tanta la differenza di emissione di radio. è poca. E va, 1, 2, 3, prova la radio, è troppo forte così. Ma è meglio 60, no? Sarà. Va bene, adesso ritorniamo con l'altro. No, vabbè, se non sento il 60, magari mi ha detto bellissima, però sento il 60 e preferisco il 60. Io, vabbè, Luca, sto usando l'85 adesso, non sto usando l'80 per esempio. Ma tu esci bene, Savato? Questo è l'MC85, ogni tanto lo metto in funzione. Allora, aspetta adesso, riprendi Falke che provo, che faccio sentire il Galaxy se come esce in FM. Gappa, vabbè, io sono piccolino, dai, sono piccolino. Luca, come ti arrivo in FM? Vai! 1, 2, 3, 4. Non mi vedi attenuato, sì, fa un passaggio, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 50, senza attenuatore. Ma c'è attivo, solo per cui spacco lo smith. Attenzione, Luca. Ehi. Questo è il brutto con il microfono, con l'M93, il palmare amplificato. Aspetta che lo sollevo un po'. Come sta uscendo? Molto bene. E cosa sto dicendo? Questo è un abbinamento buono. Poi se ci metto Bravo Plus va ancora meglio. Però guarda, questo... No, adesso si è spostato, ecco, siamo... Questo è sbagliato di frequenza. Ecco. E con questo esce bene. Falke, mi senti? Sì, è la grande. Va bene, ok, adesso riprendo la là. Riprendi, va bene, è entrato, sì. Sì, bravo, ma stava perfetta la radio. Guarda, se non me lo dicevi che avevi cambiato apparato, non lo so neanche a quello. Un po' il segnale, va bene, si è abbassato, però pulitissima, perfetta, niente da dire, complimenti. Cos'è, con l'M93 questo? E con l'M93, io il Bravo Plus sono senza batteria, se no me l'avrei fatto sentire col Bravo... Aspetta, però sì che ce la faccia a fare almeno un passaggio con col Bravo Plus. Riprendi, Robè. Perfetto, l'aveva salvato una bomba. E tra me e Salvatore cosa notti, Luca? Io sono 60 e lui l'85. Che differenza notti? Ah, insomma, non è che ci sia questa grande differenza. Sono bello tutti e due alla radio. Che a me quella dell'85 in FM di Salvatore mi piace più del 60. Mentre il 60 mi piace più in AM. Robè, mi senti? Sì, dimmi. Questo è Bravo Plus, non so se c'è ancora la batteria. Una bomba, anche questo è perfetto. Luca, ti piace? Non sei uscito, prova. Sto uscendo. No, c'è batteria, Salvato. Sei uscito un attimo, poi se ne va dalla batteria. Secondo, arrivo subito. Gappa. Beh. No, non c'ho batteria nel Bravo Plus. Comunque, quel passaggio che ha fatto, com'era? Il mio passaggio era bellissimo, niente, è perfetta, Salvato, senza nessun problema di nessun genere. Bellissima in tutti e due i modi. No, va bene, sono due abbinamenti, guarda che vanno bene. Chi se lo prende, per me fa un affarone, perché è nuovo, non c'ha neanche un graffio l'apparato. Sempre tenuto in casa, mai messo in barra mobile. Solamente che lo sto dando, perché se ce la faccio voglio arrivare a prendermi quell'altro, quello del TS2000. Ma c'è anche frequenti metto con l'apparato, Salvato? Sì, è come il grande messo in piccolo, c'ha frequenzimetro, c'ha l'RB, c'ha l'NBA, c'ha il 10 kHz, c'ha il controllo delle stazioni delle SVR, c'ha tutto. Che vai? K di Rogero. Ah, Robè, sono andato, mi sono passato. Domani mattina devo chiamare, perché ci avevano anche loro il problema del collegamento telematico. Ma li fanno? Sì, penso che ce li hanno, li vendono. Però dice che non potevano dirmi niente perché c'erano problemi sul collegamento. Io ho l'impressione, ma o se li stanno imboscando, il fatto che dicano a te hanno detto la stessa cosa. No, vabbè, questi c'erano problemi proprio loro, con computer, Media World non credo. E mi ha detto la stessa cosa, ma non gli posso dire niente perché non riesco a collegarmi. Sì, ma a me non gli deve avviare la linea. Io invece per me non erano senza linea, perché mi ha detto, ma posso dire, no, ma non penso che ce la facciamo, mi ha detto, per la partita. No, dopo li metto a chiamare, non c'è bisogno neanche che faccio, ho detto chiami e gli dico disponibilità. No, bisogna vedere adesso se era intasata la linea, perché magari vanno a rubami, perché sono convinto che con il fatto che sia lì, che il Cagliari stia giocando bene, il Milan sia vicino alla vetta, magari vanno a rubare i suoi biglietti. E sicuramente, infatti non bisogna tardare troppo. Ci diamo subito da fare, ma gente c'è sotto, Robè. No. Non sento nessuno. Mi sono andato su quel sito via per avere quel camper me a proposito. Non sai che bello, ma ce ne sono altri mica che sono per giù con quella cifra lì fra i 4 e i 7.000 che sono bellini. Ah, Salvatore, con la cifra 4.000 non trovi nient'altro. Ti sto dicendo, il prezzo più basso in assoluto non ne ho mai visto da nessuna parte così basso. È un affare, perché lo prende un affare, secondo me l'hanno già venduto. Sì, forse hai ragione. Sì, sì, non ne ho visto neanch'io, più basso non ce n'è. Per tutto quello che ti offre, poi hai visto quanto è bello dotato. Ma quello Ducato sta dicendo tu? Sì, sì, quello lì, quello che è a Tempio. Che è Olbia a Tempio, a Olbia comunque, quello lì. Cioè mio cugino, gli posso dire eventualmente a fare una scappa, però è regalato, secondo me, quella cifra è... Sì, no, è per quello che stiamo offrendo. Poi ce n'è un altro, credo che sia a Sassari forse, quello montato su meccanica Granducato. Quello proprio voglio 13,5, ma lo stesso c'ha un ma di roba c'ha. Salvato, io le ho visto anche lì a 12-13, ma sono molto vecchi, allora. E un paio di anni più nuovi di quello lì, ma 2-3 anni, ma non ne vale la grande la spendere tutti questi soldi. Secondo me uno quello lì ha quella cifra lì è regalato. Anche se volete un modello di Ducato, però. Per iniziare va bene, quello non lo paghi meno di 8-9 mila euro un metro del genere. Robby, voi, datevelo di bianco. Sì, ma è quello che mi lascia molto, molto perplesso, come lo stavano così basso, Robby? Ma se andavi a vederlo, mica devi allontanarti molto, si va, si vede. Vabbè, io c'è anche niente stasera a Tempio, vedi? A Tempio ci vado un giorno sì e un altro pure. Non è a Tempio, a Olbia è salvato. E vabbè, Tempio Olbia sono 25 km. Sì, vicino, insomma. E beh, tagli la... scendi, c'è una strada diretta, è abbastanza vicino. L'ultimo pezzo è un po' a curva, ma il resto è abbastanza buona come strada. Guarda, io ci dovrei andare sabato mattina, secondo me ci posso vederlo. Appa. Pensa Danilo intanto. No, nessuno in particolare, c'è il cognato Danilo, ve l'avevo così, ma vedete non costa niente, perché ma Danilo è di quelli che cambiano idea da un momento all'altro, mi ha detto guarda che è un affare, lui va e se ne rubiglia. Va bene, bisogna essere così, bisogna essere. Ma guarda, ti sto dicendo che se lo dico, c'è la mia moglie, mi assilla mia moglie, mi dice, ecco, vedi, il gommone non ti fa niente, visto, avevo preso uno di questi. E tu non hai spazio per tenerli, se no cazzo te lo metti magari parcheggiato all'interno, quando ti sei vivirai, perché è sempre un investimento, Salvato, è una cosa che quello che l'hai pagato ne vale almeno il doppio, per cui quando devi venderlo c'hai sempre un assegno in tasca, lo vedi subito. Vabbè, ma poi io c'è il fatto che ci stavo pensando, perché ci stavo solo pensando, perché se poi dal prossimo mese quando apro giù e magari qualche volta adesso a fare matturno a starci, no? Ma qualche volta il fine settimana me ne verrò qua e magari può essere utile per girare. Sì, ma poi, una volta che ce l'hai, tu sono trovato sei uno di quelli che gli piace queste cose. Io mi piace tanto, ma c'ho poco tempo, nel senso, l'estate me ne vado già lo 6-9, se no l'avrei preso, ce l'avrei preso, ce l'ho già, mi sarei divertito molto di più. Se fosse successo prima di andare dove vado l'estate, guai, sarei stato ogni settimana fuori. Va, adesso ci penso stavolta, cioè sabato vado a vederlo, vediamo un po', però ripeto, se interessa Danilo lascio la precedenza a Danilo. Fai quello che devi fare, io a Danilo gli avevo accennato e boh, lui aveva visto quello a 7.000, ti ricordi che ti ho detto quella storia strana, lui era innamorato di quello, se stava andando a prenderlo, poi si è saputo cosa c'era dietro e ha mullato tutto. Cosa c'era, roba, problemi? Grossissimi problemi, cacchio, non è un campo del genere a quei prezzi, guai. Scusa, e qua ci può essere che non c'erano documenti, ho incidentato. Roba di zingari in mezzo, chissà da dove ne viene quel campo e cosa ne combinato, meglio lasciar perdere. E' quello che sto temendo di questo, perché questo prezzo così basso, mamma mia, vabbè. Comunque dal sabato vado a vederlo, tanto sabato mattina devo scendere per forza. Quello che volevo dire, però tu domenica io ho avvertito, mi vai a vederti quello, mi? L'hai già avvisato? Infatti quello ti volevo dire. Se riusciamo mai a avere un telefono, io soltanto domenica sono a Porto Torre, salendo gli faccio una scappa, salendo scendendo, ci va, mai domani se mi dai il numero di telefono del tipo così gli dico che passa domenica. Allora, l'ho già avvertito, ero con lui stasera, gli ho detto già questo, anzi l'ho avvertito ieri, Questa sera gli ho ribadito, mi ha detto di darti il suo numero, così che lui c'è. Ma mi ha detto il giorno, domenica, mi ha detto potevi entrare benissimo. Era lì che stava facendo, mi sembra stava portando, innaffiando, mi ha detto. Vai, va bene. Non mi sono fidato perché ho visto il cane lì da guardia. Magari è un cane che non fa denuncia, però magari sto scendo di là a piedi, chissà cosa pensano, gli ho ritrovato a visita. Vabbè. E quello vedi, magari può essere interessante anche quello. Vabbè, adesso vediamo un po', ma è come quel grillo in testa, cri, adesso inizia a girare. Ok, riprendi Luca. Pare si è allontanato. Anche Falchetto, ci sei rientrato? Aspetta, tolgo l'attenuatore, era tanto, se no poi me ne dimentico tipo di corso. Comunque, quello di Porto Torres è molto più nuovo. Io penso, guardando, l'ho visto di sfuggita perché non si vede bene, non ho visto le taglie, però guardando dovrebbe essere da 92 in giù, 92, 93, 94 come età. Guarda, io non mi ricordo, ma mi sembra che lui mi abbia detto che era intorno al 96. Se 96 mi dà ancora. Lo vedi? Lui mi ha detto che è nuovo, ecco, io vero, è nuovo, tante volte gli ho detto, ma è trattabile solo quella città che ti ho detto personalmente? Lui no, mi ha detto, nemmeno lo lascio posteggiare tu lì, perché è nuovo, mi sembra 3 anni o 4 anni che non esce da lì, lui lo mette in marcia per tenerlo sempre il motore, lo lascia in marcia non so un'oretta e poi lo spegne, capito? Dopo un paio di giorni lo lascia in marcia e spegne. Il suo problema te l'ho spiegato quale, se no ce l'avrebbe usato lui. Ah, quindi lo mette in marcia? No, perché a lei gli avevo detto che 5 anni fermo, ho detto poi bisogna sbloccare la pompa e tutto, invece lo mette in marcia lui. Sì, lo mette in marcia ogni giorno, non so se ogni giorno, lo mette in marcia, lo fa girare per tenerlo sempre le batterie in ordine, per sentire il motore, e tanto se lo mette in marcia anche. Allora è buono, io ero preoccupato, anche se poi devi, se rimane un fermo per tanti anni, un mezzo, le pompe di iniezione già lo sa meglio di me, devi smontarle, sbloccarle, eccetera, eccetera, ma se lo mette in marcia non c'è problema. Allora, lui ha detto che lo mette in marcia, poi te lo mette davanti a te, magari l'unica cosa che può essere invece, come magari è sempre fermo, che non cammina, possono bisogna controllare magari i freni, quella roba lì, ma sono fesserie, se riuscite a risolvere quel problema che ha, penso che può essere anche un affare quello. Infatti bisogna capire esattamente di cosa si tratta, vabbè, i freni di assistenza, magari le gomme saranno valizzate rimanendo ferme. Basta farle girare, poi si risistemano, ma penso che lo muova ogni tanto, perché non sia così stupido lasciarlo fermo, no? Ma tu dimmi una cosa, l'hai visto da vicino tu quello? Io l'ho visto da vicino, dentro non ci sono entrato, ma perché non mi interessava, io un giorno sono capitato per altre cose e ho visto di camper, lui vendeva camper, lo conosce bene quel camperista di Sassi, uno dei più anziani, tu ricordi quello, come si chiama, Virdisi, Pino Virdisi, lo conosci? Ma meccanico? Sì, capa. Sì, vabbè, non personalmente di nome, mio padre lo conosce. Lo conosce bene lui, perché questo qua prima era commerciante di ruote e di camper. E quindi si conosce con il signor Virdisi. Siccome il signor Virdisi ha avuto lo stesso problema, aveva un camper bellissimo, un Laika, un super Laika, guarda, bello. E lo stesso problema dei documenti aveva. E so che poi alla fine l'ha venduto, non so che giro ha fatto, ma non l'ha venduto, ma l'ha svenduto. Diceva, ma tu quando hai sceso col camper? Non lo so, sabato. Adesso finita la mezza giornata e già troveremo un giorno, una domenica, fine settimana. Allora fallo camminare. Se tu me lo dici, per provare, magari ne posso provare a noleggiare uno e magari usciamo insieme, ma che sia un giorno in festa, ci siano almeno 2 giorni, ecco, consecutivi. Quello sì, l'avevamo già detto, periodo di Pasquetta, quel periodo di... Vabbè, il giorno prima di Pasqua andiamo dove dobbiamo andare, già si sa. E lì il camper non se ne va fatto nulla. Però magari a Pasquetta o qualche ponte di questi... Anche se 25 aprile è domenica, 1° maggio mi barizzare il sabato. No, non c'è nessuno ponti, Ho guardato anch'io per vedere quando volevamo rifare i nuovi biglietti, ma mi sembra che punti non ce ne siano, robe. Credo che bisogna sacrificare qualche giorno di lavorativo per fare quel volo lì. Sicuramente. Poi mi pare c'è il ponte, quello qua della festa della Repubblica, il 5 giugno mi pare, con quello lì già c'è il ponte, insomma c'è il materiale di mercoledì. vedi, no, se tu dici sì, questo esco in questo periodo, convinco, non c'è bisogno di convincerlo, guardo bene se trovo una noleggio e così lo si prova, più che altro il gusto di uscire, ragazzi, facciamo compagnia, magari ce ne andiamo in una zona nuova che non ho mai visto, nel rese, in montagne, al mare, dove ti piace. Sì, o se no, se c'è la targata, fatti ferrare quello del tipo, cosa dici, prenda, ma lo provo. È chiaro che non si possa uscire lo stesso, non esistono queste cose su quei mezzi. Ma so che se ti trovo domenica sono duri. Perché tu non lo puoi provare in mezzo? No, assolutamente. Naturalmente ci deve essere niente della targa prova. No, io c'ho mio cugino, c'è la targa prova, lui d'estate, festa, tutto quanto, dice le sto provando in mezzo, devo ripararlo, la devo acquistare, la sto provando, perché no? Ascolta Robe, aspetta che ti chiedo una cosa. Allora, facciamo ipotesi, su quell'Opel io faccio la targa prova. E se devo trainare il terreno cosa faccio? Lo posso trainare lo stesso? Vabbè, di lì c'è il discorso della sicurezza della targa prova, siccome. A proposito, che mi è capitata l'occasione, un amico Salvato, ho pensato a te, un Fiat Ulisse, non è nuovissimo di età, però è nuovo come è stato d'uso, il motore perfetto, questo era proprio un uso di maniacale, era. Gli ha fatto, addirittura mi ha detto che la pompa di iniezione l'aveva avuto a portare a Cagliari, ha speso 1400 euro, che dice l'unico che lo fa in Sardegna, quel tipo di iniezione che c'ha il macchinario, c'ha già il calcio di treno, tutto quanto, 7 posti, lo sai quanto lo sta vendendo? No, dimmelo, che mi vendo l'Opel. 1500 euro. Papà, ma è così, il 2000 turbodiesel? Sì, il turbodiesel, però non so se sia 2000 o 2002, forse 2002, perché c'ha quel motore francese, siccome li fanno in Francia quelli lì, e c'ha il motore, non mi ricordo che cazzo di motore è, quello della Peugeot, che montavano sulla Peugeot. Ho capito, sì, dovrebbe essere 2002 quello lì, ma è veramente, Cassio, 1500, Cassio, domani chiamo una persona che mi ha chiesto l'Opel, ma com'è di carrozzeria, Robe? Perfetto, non c'è niente da dire, le ha cambiato le gomme, ci sono le gomme nuove, se tu te lo guardi, dici, non è possibile. E c'era questo scemo stamattina, se lo stava guardando, che non sa come fare, mi chiedi le rende 1500 euro, come un amico, che ce l'ha questo, te lo sta dando 1500 euro, una macchina nuova di negozio. Questo monovolume, ti ricordi come erano le vecchie Ulisse? Ci avevano la tastiera, il codice, tu dovevi schiacciare il codice per scrivere il numero, per mettere la moto dovevi scrivere un codice, c'è proprio una tastiera. E l'unica cosa che modifica ha fatto quello lì, che ha eliminato quella tastiera, l'ha fatto direttamente con la chiave. Ha fatto bene, e poco rompeva le scatole quel codice. Che una grande cagata, come ce l'aveva la Peugeot vecchia, ogni volta dovevi scrivere questo numero, ogni volta che ti fermavi dovevi scrivere il tuo numero. L'ha venduto o ancora lo sta vendendo, Robe? Lo sta vendendo, sì, la stasera, io ho visto stamattina, infatti quando ho visto il prezzo, mi ha detto il prezzo 1500, siccome c'era un altro, lo stavo guardando, ma quanto lo sta dando? E ha detto 1500, io sono rimasto, ho detto 1500, ho detto 1500 regala, perché è bello, di carrozzeria, se tu lo vedi, non c'ha un graffio, tenuto bene i sedili, interi nuovi, il motore si è speso anche il soldi per sistemarlo. Me l'ha fatto Torino, ho venduto il motore. E mi ha detto che l'iniezione, non so se l'ha fatta l'anno scorso o due anni fa, che ha speso 1400 euro, la fa solo Cagliari. Può essere una cosa del genere? Non so, perché magari che c'ha bagnetto le pompa, no, perché lo fanno anche a Sassari. È strano, ma magari l'ha voluto mandare a Cagliari, mi sembra strano che l'abbia anche solo Cagliari, non è una pompa particolare. Eccetto che non sia la... No, può essere. Perché quella pompa che sopra c'ha la centralina, può essere Robè. Mi sembra che sia, può essere Lucas come iniezione. Sì, quella pompa che c'ha la centralina, e per tararla bisogna avere un attacco speciale, perché mi sembra che non ce l'abbiano, perché noi non è che ce ne siamo molte di quelle pompe. Ma dice che qua a Sassari non c'era nessuno, l'ho dovuto portare a Cagliari, che ci vuole un macchinario preposto, proprio specifico per quel tipo di pompa. E lui cosa sta prendendosi? Qualche macchina, Robe? Clulisse, però nuovo. Ah, ok, quindi non lo sta versando questo qua? No, nuovo di età, più nuovo di quello. È un partito dell'Ulisse, allora? Sono entrato, Robe. Sì, va bene, un attimo. No, mica Ulisse è una bella macchina, non so se tu l'hai mai visto. È derivato dal Ducato, dallo scudo, con le macchine di droga dal Ducato, dallo scudo volevo dire. Tu già ce l'hai avuto lo scudo, c'ha 7 posti, i sedili li togli in un attimo, è bello da guidare. Ma no, è bellissimo, io ho avuto sia le espanse, quel monovolume, le nuove espanse, e che allora c'era le espanse e c'era proprio l'Ulisse, erano tre, aveva fatto l'espanse, c'era l'Ulisse e poi quel Pesù, cos'è, il 308 mi sembra che fosse, vabbè, e poi ho avuto il Tragete sempre con monovolume, no, io il monovolume sono troppo, mi piacciono troppo, hai visto col doblò ci giravo tranquillamente. Ma domani mattina, ma eventualmente lo riesci a rintracciare tu? Sì, non c'è problema, quando vuoi. Lui si sta prendendo, non lui, sto dicendo per sera, la lanciapetra nuova, usata però nuova come tal. Sì, no, se mi stai dicendo così, signor, domani mattina c'ho una signora che mi stava chiedendo quel bidone che ho adesso, no? Ma io lo so, ciframi, per riuscire a fare patta. Cosa c'è il calcio di traino? Perché lui è pescatore, fa pesca su guapa, cosa del genere, lo utilizza anche per coso, infatti ne toglieva i sedili, dice, ma vedi, se lo vedi, è nuovo un uomo, non è di quelle persone, trottore, sono uguali, è nuovo un uomo. Anzi, faccio di più, la chiamo adesso, dopo che finisco, chi ne sono? Chi ne sono, Roberto, gente, perché non c'ho niente qua. Però è quasi in mezza. No, guarda, te lo prima, ha salvato l'ora per fretta, lo vediamo, te lo provi e lo vedi. Vabbè, ma io chiamo questa signora, perché se questa signora è ancora intenzionata, gli dico, guarda, tiro la mia macchina, gli sparo la stessa cifra e così non giro i soldi in poche parole. Sì, a tu gli puoi dire anche 2000 euro. Ma chi se ne frega, l'importante è riuscire, a me piace più l'Ulisse, c'ha il gancio di traino, e poi è più macchina, c'ha 7 posti, non mi sembra vero a me, e poi viaggiando su per andare a Tempio, siamo nel 2002, quando prendo la Fumosa va meglio. Sì, no, da quel punto di vista è una bella macchina, aspetta che c'è Falchetto che è andata avanti, Falchetto. Niente, io vi lascio, faccio carica, dai, se ce la ascoltiamo più dopo, se no tutto è possibile, ciao. Facciamo Falchè, ben sentito, adesso lo posso dire veramente, ben sentito perché ti sento benissimo. Quanta va stai arrivando benissimo, ok, buona carica e boh, non so se rientri poi, se no ci sentiamo le prossime, vai Robè. Va bene Falchè, dicami perché la parte mia, quello che ti ha detto Salvatore, 100%, buon tutto là. Ok, Salvatore 500 vai. 500, va bene. Industriale, dove? Sì, l'altro industriale, al confine dell'altro industriale, non so se sei pratico, con la zona industriale finisce e inizia la zona industriale Calangiano, noi siamo sul confine proprio. Chi c'è? Di Pellegrini, di dove c'è il coso di Pellegrini? Un po' prima, a fianco c'è un carrozziere, non ti dico altro. Cappa, è rimasto molto grande il locale. Oh, sono 400 metri quadri più l'ufficio, no? Non è grande, Robè. Ah, già, 400 metri quadri non è piccolo. Ma ci sono già i macchinari dentro? Oh, no, devo allestirlo. Qualche doppione me lo porto da qua e qualche altra cosa la metto lì. Ma diciamo che stiamo facendo un tentativo, tanto non siamo in affitto, stiamo provando. Poi se vedo che tira di più lì, posso prendere decisione. Se vedo che lì non tira niente, abbasso il serrano e me ne torno qua. Ma adesso che ti hai venduto tutti un sacco di macchinari, magari ti potevano essere interessanti. Comunque ne ho visto, lo metto, ho visto dei tunnel. Ma a te cosa ti occorre? Che tipo di lavorazione devi fare? Ma io faccio le stesse lavorazioni, lavoro le prese, sono testate, cilindri e revisione dei motori. No, diciamo che mi porto qualche macchinario che c'ho doppio, ma lascio qualche cosa qua e qualche cosa. Più che altro voglio vedere un po' com'è, se veramente, e come mi hanno detto, può esserci una novità anche perché saremo soli solo. Ma se mi accorgo che c'è Murturio, faccio prima abbassare, provo 6, 7, un annetto e poi chiudo. Perché non è che posso stare lì a aspettare che è morto. Vediamo un po' come risponde. L'unica cosa è che magari viaggerò giù e non viaggerò, quindi quando capiterà di andarci io mi porto giù questo e ci metto su una bella direttiva a quel punto. Giaro Grillo, ma c'è il tanto, dico, ce ne sono richieste di lì. Pari sì, così, sulla carta sì, Robe, sulla carta c'è. Ma se ci pensi che c'è vicino un carrozziere, è proprio destino che ci abbia amici carrozzieri, eh? È vero, in gamba, come va bene, non mi viene il nome. Un paio li conoscevo di tempio quando andavamo per le riunioni. Non ti posso dire neanche il nome, il cognome, non li ho conosciuti, se li ho conosciuti so, ci siamo salutati, poi i gallurisi sono molto cordiali, ti mettono subito in amicizia, se gli dai l'amicizia, se si accorgono che invece sei di quelli resti, ti mettono in un angolo e non fai più niente. Abbiamo chiacchierato così, ma non so neanche come si chiamano, sono due ragazzi e basta, magari conoscerò più a fondo, più in là, ecco. Non è quello grosso, o comunque quello che è uno dei più grossi della Sardegna? Oh, no. Cioè, perché c'è una carrozzeria grossa a Tempio, l'interrogativo? Ma ovviamente è la più bella carrozzeria che c'è in Sardegna, è una bellissima carrozzeria, nuova, efficiente, un bel grosso. Guarda, non lo sapevo neanche, io ne ho visto una, Romè, che mi sono spaventato. Allora, l'ho vista, un paio di mesi fa sono sceso in un paesino della Sardegna, non abiti sono sceso, sì. Allora, ho visto questa carrozzeria che ho detto, ma tutta fatta a vetri, ma tu devi vederla, una cosa, sembrava una sala operatoria. No, questa che sto dicendo io è Musilli, si chiama, di Tempio, è bellissima, anche su riviste specializzate l'hanno nominata. Poi non è classica carrozzeria, nel senso quella a livello industriale, perché fa anche mezzo industriale, fa cose grosse, bella col giardino, la sala attesa per i clienti, il parco giochi per i bambini, cioè c'è una cosa spettacolare, se la vedi proprio per costruita, proprio per come carrozzeria, no? Prendere un campanone e metterti dentro, questa è una carrozzeria, c'è cioè un locale costruito per fare una carrozzeria con le ultime tecnologie. Non lo aspettavo, ma lavoravo bene poi fra l'altro. Guarda, ci lavora, tra l'altro adesso se n'è andato perché anche loro hanno avuto un calo, un ex dipendente nostro che gli mancavano qualche anno per andare in pensione, l'hanno chiamato, poi c'è un altro amico, lo stesso di Sassari, che lavorava da noi, che lavora da lui, e c'è un sacco di dipendenti, è molto grossa come carrozzeria. Ma quindi lavorano, cioè oltre al lavoro, ma dico, vuol dire che sanno lavorare, perché io penso che se sei lavorare tutto va bene, se non sai lavorare puoi vivere di immagine per un po', poi però la gente ti scopre. No, io non li conosco personalmente, comunque dovrebbe essere anche da quel punto di vista una buona carrozzeria. Che per me che ce ne siano molte, mi sa tanto, anche quel campo devono essere abbastanza ristrette, Robe. Non so quante ce ne siano a Tempio, però già ce ne sono abbastanza. Poi ci sono tutti quei paesotti vicino, già ce ne hanno due o tre carrozzerie ogni paesotto, per cui le circondarie già ce ne sono. Sì, quello è vero. Vabbè, va. Ma deve essere che si e quelli con la scusa del ghiaccio, non sai quanta gente si sbatte, robe. Vabbè, poi quando apriamo e facciamo l'inaugurazione, se devi venire, vieni con me, perché te la voglio far vedere. Sì, ci mancherebbe, non c'è problema. Andiamo così. Ma comunque calcisticamente sono matemi lì. Caspita, parli di calcio, sono appassionati, deve essere non abbiano altro, robe. E cosa vale? A sei cose vale, mamma mia. Diciamo una bellissima cittadina, però è una cittadina, non è una città. Sì, è una cittadina piccola, poi la ricchezza non è neanche lì, la ricchezza è nei due paesi che ci sono più avanti, e a Calangiano e a Lura ci sono le ricchezze. Io lo so, di lì bisogna dire, con le carne, eccetera, eccetera, col sughero. E soprattutto il sughero, sono tutte le fabbriche sono di Calangianus. Non sappiamo che, per esempio, il paese di Luras è una comunità di vecchi ebrei, sono. Io c'ho un libro, un giorno te lo faccio rileggere, ti fa anche delle risatine. C'è scritto Sardi, aspetta così, Sardi dall'altro mondo, e ci sono tutti i difetti, i pregi e i difetti dei Sardi. L'hanno fatto per i napoletani, per i siciliani, e ci sono tutte le zone della Sardegna, per i sassaresi, i sorsesi, i cagliaritani, quelli di Luras, non mi ricordo come si chiamano, calangianesi, tempiesi, e ci sono tutte le cose di origine, e poi ti dice tutti i difetti, quello cosa, il tipo di parole che usano più facilmente, come ti guarda, poi guarda, te lo faccio leggere perché ti fai delle risate allucinanti. No, me lo fai leggere perché così almeno sono preparato, no? Mi dici quale mi interessa sapere i pregi e i difetti, io ci vado già pronto, ci vado robe. I per di Luras infatti hanno una bellissima reputazione, hai detto bene tu. Io li conosco per questione di sport, diciamo, non per altre cose, però per livelli di cose non hanno una bella reputazione, come qualche paesotto di Zonaretta senza far nome. No, sono, come si dice, abbastanza vendicativi contro chi non si comporta bene. Comunque sono di origine ebrea, di ebrei, no? Io non c'ho niente contro gli ebrei, attenzione, io li rispetto perché è un popolo particolare che ha sofferto, però dico, loro sono una comunità, era una vecchia comunità ebraica che si è installata qua in Sardegna, e come tutti gli ebrei hanno sviluppato il commercio, tant'è che sono tutti commercianti a Luras. No, è una cittadina molto ricca, di questo degli ebrei non sono, non esisto, dovrei documentarmi. Però c'hanno qualche cosa che non quadra con i paesi vicini, qualche tipo quando c'erano le guerre, sono sostenuti le curdi, che non si potevano vedere, oppure sassarese e cagliaritane, e lì più o meno c'è la stessa cosa, non mi ricordo se contro l'Uovo Santo o contro Calangiano, quelli di Luga. Sicuramente contro Calangiano, sono quasi confinanti. Allora, Calangiano e Tempio parlano gallurese, invece a Luras parlano lugodrese, ti dico solo questo, proprio diversi completamente. Ma io, l'altro giorno, così, con l'ultima volta sono sceso, sono andato a vedere qualche appartamento lì, no? E sono andato a Luras proprio, sono andato in questa zona, e mi ha colpito perché questo è un appartamento, una palazzina in alto, nuova, prima costruzione, in alto. Dove c'è un punto per installare le antenne stupendo, davanti c'hai tutta la vallata, Rome. Ho fatto il calcolo e ho detto, da qua mi potrebbe andare bene. E Gianluca, tu hai subito avvisato alla cosa, alla trasmissione dei coso. Mi sto andando a questo di stare, l'hai vista io la partita? Sì, l'ho vista, ha giocato bene l'Inter. Da milanista devo dire che lo invidiate perché hanno giocato benissimo, intelligentissimo Mourinho, Sì, no, ma non ne dubitavo, no, quel tipo ha del cane, è teso, dice, musulmano è diventato. Sì, è vero, sì, è facile, ma è anche una moda, attenzione Robbe. Comunque, tornando alla partita, mi è piaciuto anche il comportamento degli inglesi, sono usciti a testa alta. No, sicuramente non c'era tu, erano troppo superiori, e Mourinho ha beccato la partita, nel senso a livello disposizione dei giocatori, atteggiamento dei giocatori è stato eccezionale, infatti merito della vittoria la do a Mourinho, grande allenatore, l'ho sempre detto, un ottimo allenatore, anche se è un personaggio, nel senso ha i suoi pregi e i suoi difetti caratteriali, però a livello di tecnica calcistica è un maestro. Sì, no, mi ha fatto ridere, oggi ho letto l'intervista, stavo leggendo il fatto di Balotelli e del terzino, come si chiama, Santon, che sono giocano nell'Inter ma sono tifosissimi del Milan, E il fatto di Balotelli che l'ha messo fuori squadra è perché quando ha perso contro il Catania, dice che Balotelli è entrato in spogliatoio cantando l'inno del Milan. Vabbè, io ci sono le macchine che dicono i giornalisti, non ci credo a questa cosa. Io sono convinto che questo Balotelli all'anno prossimo va a finire al Milan, non ci credi tu? Ma se non ci va a finire perché magari lo diamo dall'Inter, perché giustamente rinforzare il Milan sarebbe rinforzare il Milan, ma non lo so. Mi sembra che questo ragazzo voglia fare tutto per venirci a giocare, magari quando si viene al Milan inizia a gioire pure, perché è uno di quelli, c'è un suo carattere particolare, a volte è antipatico e a volte è anche simpatico. È antipatico quando fa quelle sceneggiate, ma è simpatico perché è uno che c'ha carattere, Robè. No, io guarda, non lo critico, diciamo un ragazzino giovane, ha 19 anni, però io lo considero un grandissimo giocatore, ha un talento impressionante, da, io lo seguo da quando c'era 17 anni, che era proprio, mettevano 10 minuti, ho detto questo è un fuori classe, però ho visto, c'ha delle giocate, dei numeri, la paura. Purtroppo, secondo me, lui si ritrova in una situazione dove ci sono altri campioni, lui non è nessuno, confronto a questi Zanetti e certi giocatori, si trova un po' a disagio. Ma adesso, se lui va a finire in una squadretta piccolina, che giocano tutti per lui, lui diventerà un fenomeno. Io, nell'Inter ha dimostrato che è un fenomeno, perché ha risolto partite. Il problema dell'Inter è che lui è un italiano, e Mourinho come fa a schierare un italiano nell'Inter, Robè? Va bene, anche questo, c'è da dire quello lì. No, ma quando uno gioca in Malaguglia, Salvatore, lo serve meglio di me, non rende come dovrebbe rendere. Ma hai visto, non risulta neanche. Lui ha detto, risulterò, se vado a giocare in nazionale, vinco la partita, la Coppa del Mondo per merito mio. A quel punto risulto. È un tipo un po' così, strano, no? Sì, diciamo che è così e basta. Ma i tifosi non stanno adesso, cioè i tifosi sono stupidi, perché il fatto che sia andato a vedere la partita del Milan hanno subito criticato, tu devi giudicare in base a quello che gioca. E allora è come che un dipendente, cosa avete dica, dalla Fiat vada e si compra una macchina della Opel, faccio un esempio, cioè, di colpo non è più bravo, non è più un bravo operaio, quello mi sembra che questo fatto atteggiamento dei tifosi, che negli altri posti non succede, io penso che in Inghilterra non succedono queste cose, non è. Che cosa, c'aveva una mentalità completamente diversa, la sportività inglese è risaputa, ma tu l'hai visto quando ha giocato Beckham, vai a farlo giocare in Italia per dire chi è che se ne va, c'è Zanetti che c'è la vita nell'Inter, va a giocare nel Milan. Ma fanno a pezzi quelli dell'Inter, non ci credi, lo fischiano e fanno striscioni. Beckham, considerando che se n'è andato dall'Inghilterra, gli hanno scritto gli striscioni, l'hanno applaudito, quando si è fortunato l'hanno trattato benissimo. Sì, ma io mi ricordo sempre quando Nesta è passato dalla Lazio al Milan, poi quando è iniziato il campionato, che sono andati a giocare a Roma, l'hanno fischiato in una maniera schifosa, una bandiera era, solamente perché aveva cambiato maglia. Lì è proprio, significa che il tifoso non ha moralità, ecco. Lo so, sono gente ignorante, non esiste. Quando se n'è andato a Baggio, tu dico dalla Fiorentina, dopo che ha presentato tantissimi anni, almeno per riconoscimento l'ha arrivato a pezzi, per riconoscenza l'ha disintegrato. Ma io ho visto, guarda, sono due giocatori che hanno veramente applaudito, uno è Beckham, e l'altro, devo essere sincero, mi è piaciuto quando è venuto a giocare Real Madrid a Milano e c'era Kakà ed è stato applaudito. Minimo, cacchio, non lo gioco dopo tutto quello che ha dato al Milan, ma se hanno fischiato a Maldini, ma tu ci pensi che hanno fischiato a Maldini? Guarda, quelli sono stati, è stata la cosa peggiore da milanista, guarda, è un rimanore, perché non si può fischiare la bandiera. Comunque, tornando al fatto, ricordate una cosa, mi cacca, il prossimo anno giocare nel Milan di nuovo. Ah, parametro zero. Tu vedrai, al massimo Milan magari potrebbe perdere qualche giocatore in cambio, tipo potrei pensare a Pato, ecco. Non lo so, Pato è troppo giovane, è troppo forte, non credo che se ne disfino, non chiedo, guarda anche loro il bilancio, perché Berlusconi l'ha sentito l'altro giorno, dice stiamo guardando al bilancio. Vabbè, stiamo guardando al bilancio, ma il Milan non è una squadretta, non è, come ti posso dire, il Palermo, il Catania o la Fiorentina, cioè quando partecipa alla Coppa Campione è per vincerla, non per parteciparci, quando partecipa al campionato non è per entrare a fare i primi quattro, deve partecipare per vincerlo, se no prende, lascia tutto, vende e passa la mano, perché ha fatto fatto tanto bene, perché ha salvato la società dal fallimento, però adesso ultimamente se ne sta fregando. Purtroppo se vuoi competere con le grandi del calcio, l'Inter, Real Madrid, Barcellona, Chelsea, queste società qua, devi spenderlo qualche soldo. Ma lui adesso con il discorso della politica non deve sperperare, deve cercare di darsi una regolata. Non è come Moratti, Guido, di dire la fine della rampa, Berlusconi è quanto Moratti, però con la posizione che occupa si è dovuto dare anche una regolata, perché non è che può buttarci i soldi così. Moratti, io ho visto una trasmissione che ha speso più di 1.100 miliardi, una cosa del genere da quando è entrato nell'Interlugo. Sì, è vero, è vero. Ma guarda che Berlusconi ha più di Moratti, perché solamente il reddito di quest'anno, l'ho letto, ma è una cosa, mi sembra che sia il sito uomo più ricco del mondo, o il dodicesimo, un affare così, comunque potrebbe permetterselo, proprio non lo fa perché per l'immagine. Però io dico una cosa, se non lo puoi fare più perché ti stai dedicando alla politica, vendilo il Milan. Ci sono gli arabi che lo volevano comprare, che avrebbero investito. Nesci pulito, così invece i tifosi stessi lo stanno sempre attaccando, striscioni, contestazioni, non è che hanno tutti turti, perché caspita, siamo tanti anni con i Calazze, con i Ancuruschi, con i Dida, gente che non è da Milan questa, abbatte quel ragazzino, non è da Milan, eravamo abituati ad altri livelli, Robè. Sicuramente, vabbè. Loro hanno fatto delle scelte, delle politiche diverse da come andava prima. Prima io mi ricordo, sino a 2 anni fa Berlusconi ha fatto una battuta, io non temo confronto nel mondo, se mi serve un giocatore non abbiamo uguali a livello economico che si possa confrontare con me. Questo l'ha detto o 2 o 3 anni fa. Adesso da quando ha venduto Kaká sembra un altro tipo di persona. Sì, sì, perché non sta ragionando lui, sta ragionando la finanziaria sua, la Fininvest. E la Fininvest c'è la figlia che è una tirchia che guarda i bilanci e capito? Già si vociferava che era lì che voleva spingere il padre a vendersi la squadra pur di incassarli, perché tu considera che il Milan è quotato, l'ho letto l'altro giorno, è quotato 800 milioni di euro, cioè l'ha acquistato a 24 miliardi quando era in lire, adesso ne vale 800 milioni di euro, insomma che guadagni avrebbe a venderla quella società? Penso che a tutti farebbe gol a venderla, finché c'è in vita lui non la vorrà vendere, però le spese le hanno tagliate. No, ma siamo la Berlusconi, io gli arabi neanche se vi garantissero la Coppa dei Campioni ogni anno, non ne avrei mai dato, non meritano niente, lasciamo perdere. Sono d'accordo con te, Robert, però là deve mettersi in testa che qualche soldino deve studiarlo, perché basta che compri due campioni e il Milan è competitivo, deve andare in difesa perché siamo vecchi e al centrocampo. L'attacco, guarda, meno male compatto con Moriello, e quest'ultima potrebbe anche andare, ma qualche reparto si deve dare una ricontrollata. Ma vabbè, ma che ne sono? Più delle 9:30? No, sono meno 10, le 9:00, c'è anche la partita, oggi c'è il Barcellona, vabbè non me la fosse nuda, però gioca a parlare del Barcellona, ok, Bordeaux può essere. Oh, è bella, c'è anche le... no, il Bordeaux gioca col CSKA, no, con chi gioca? Che segue il Guff. Ah, quello Palatinaikos, può essere. Quella, sì, che non sai quella mi si è bruciato nel K, la lampadina messa a corsa adesso, la lampadina dello Smitter, bisogna che lo apra, quello magari ci riesce a cambiarla io. Aspetta, no, non l'ho mai visto, io l'ho visto aperto in fotografia, tutto spaccato, ci ho scaricato da internet tutto lo spaccato, però aprirlo io no, lascia aperto, perché sopra c'è quell'interruttore, non l'hai visto tu? Sì, c'è quell'interruttore, quello lì, e vabbè, non lo mando su a Milano per cambiare le due lampadine, no, penso che non sia così difficile. No, non lo so, mai, possono essere anche di quelle a incastro, a baionetta, non so, però se c'è roba da toccare, stai attento se devi aprire qualche circuitino per toglierlo, la gabbifica. No, no, guarda, ma da dove c'è la luce, Robert, tu che ce l'hai? Da sotto dove c'è il lago o dai lati? Oh, sembra andare da sotto, Salvato, guardando l'acqua. C'è quello spazio vuoto che lavora lago? Non credo che sia in trasparenza, ma che non sia in trasparenza, può essere pure in trasparenza, non lo so. Riesci a vederlo tu? No, vabbè, non si vede. Mi sa che è in trasparenza, che quella dove ci sono lo svizzero, le indicazioni sia tipo una faglia di vetro trasparente. Quindi c'è la retrostante, c'è la lampadina. Io pensavo che fosse lateralmente dove c'è il tastino attenuatore, no? A fianco, ero convinto che fosse lì la lampadina. Non lo so, guarda, da qua non si vede bene. L'altro giorno ho provato un tasto, l'hai provato in scansione l'apparato tu? Mai, avanza, te lo devo dire, mai provato, io le cose, ma in scansione, a parte non so neanche come si usa, perché non trovo il manuale di questo. No, vabbè, è abbastanza logico, già è semplice. Allora, tu ce l'hai memorizzata da 1 a 40, come ce l'hai memorizzata il canale? Da 1 a 42 mi sembra. Tu schiacci scan e ti va tutto in giro nei canali che ci ha memorizzato, da 1 a 42, dura mi pare 3 o 4 secondi o 5 secondi, e vai in movimento, finché non trova il canale, qualcuno che sta parlando non si blocca. La stessa cosa lo puoi fare in continua, si trovi a continua. Beh, si trovi a continua, cosa devo metterlo però? Devo metterlo in manuale, WFA o manuale? Ti metti il WFA manuale e poi metti scansione. Capito, e parte, per esempio, se lo faccio adesso, parte da 26.500 verso l'OFE. Salire, si da su va, si da quando lo trova un segnale. Salire, non a scendere. No, a salire. Poi se lo vuoi bloccare la scansione schiacci clear. Sì. Ma sai che ci sono tanti che io non ho mai provato? Allora, dall'altra parte, dove c'è scritto RIT, A barra B, quella XCT cosa vuol dire? Quelli sono, come si chiama? Fa la prima parola. Quando puoi spostare un pochettino, ma non sono cose che dobbiamo usare noi, la B lì, quando ci sono degli tipo lo split, dei coso, nelle bande, nelle altre bande. Questo ti sposta di frequenza, cioè ascolti su una frequenza e parli su un'altra. Quello split, io parlo l'altro, quello XCT. Ah, ho capito lo split, no, non lo so, la XT non lo so, sì. Comunque c'è il manuale in italiano, se vuoi te lo faccio vedere. No, no, quando non c'è tempo, guarda a me cosa vuol dire questo XCT, che non ho mai capito. Quello XCT è quello T-F7. Aspetta, quello me lo ci devo pensare, perché l'ho letto, però aspetta, lo dico subito. E poi tu, con la tastiera, mai entrato, sì. Oh, è che non sia quello, che non sia il settaggio quello lì. No, allora, se tu vuoi scrivere direttamente la frequenza, scrivi, schiacci nel WFO, scrivi WFO e poi metti Enter, schiacci il tasto Enter, lo vedi, e poi scrivi il numero, l'hai visto? Dove c'è scritto LSB, USB, CW, eccetera. Lì ci sono i numeri, l'hai visto? Ma sì, quello sì lo faccio, ma almeno io non ho memorizzato tutte le frequenze, quando tu mi dici passa a 26.500 in FM, io vado in manuale, poi metto 26.500 e FM, non ce l'ho memorizzato, tanto è vero. Lo scrivi tu con la tastiera? Sì, con la tastiera lo scrivo, sì. Però io credo che ci sia possibilità di entrare nel menu, tra l'altro qualche menu questa radio, e forse quel T, trattino F7, e forse il menu quello lì, Robè. Aspetta, lo dico subito, ce l'ho qua portata di mano. Aspetta, lo sto cercando. Fai. Insomma, è qualche cosa, così guarda anche quella XT cosa vuol dire. È un bel grosso questo manuale delle 4.40, e poi ci sono lo schermo elettrico, tutti gli accessori, fatto bene. Ok, ma tu da internet te lo sei scaricato? No, me l'ha dato, chi me l'ha dato, già lo sai, è in 3 lingue, 1, 2, 3, 4, 5 lingue, cioè l'ultima parte in Italia, l'aspetto. Ok, perché ho provato a cercarlo su internet, non l'ho mai trovato. Vabbè, e poi alla fine è semplice. Ma, ripeto, quelle due o tre cose non sono riuscito a capirle. Aspetta, vabbè, cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? XIT, quello lì? Sì, XIT cos'è? Allora, quando il comando RIT XIT viene votato dopo aver premuto il tasto XIT, la frequenza di trasmissione può essere variata di 1,2 kHz in più o in meno, ecco, una specie di shift, in più o in meno senza influenzare la frequenza di ricezione. Prevedo nuovamente il tasto XIT, ne viene eliminata la funzione. Quindi è un... split cosa vuol dire, scusa? Devi premere tutti e due insieme, qua c'è scritto. Allora, quando il comando RIT XIT votato dopo aver premuto il tasto XIT, la frequenza di trasmissione può essere variata di 1,2 kHz in più o di meno senza influenzare la ricezione. Ti varia la trasmissione questa. Ah, bellissimo, quindi noi possiamo ricevere, per esempio, adesso siamo in 26.500 e possiamo trasmettere in 26.400. Sì, e questo va bene quando abbiamo non facci sentire, ragazzi. Adesso poi lo provo. Ascolta, T-F7 cosa vuol dire? Aspetta, aspetta, te lo dico subito. Che cavolo è? Il processore. Sto cercando, mi lascio un secondino. Sto cercando, ma non riesco a vederlo. Allora, commutato le selettività, niente. Ritorno sul processore. Allora, RGC, ripresa microfono, attitudati, true, vai. E schiacciando non succede niente, Roberto, lui, Aspetta un attimo, l'hai già provato a spingere? Sì, l'ho provato a spingere, però non vorrei che fosse bisogna spingere insieme a qualche altro tasto. Se sto guardando tutte le cose per capire, però eccolo qua, TF7, prevedendo questo interruttore si potrà predisporre o controllare rapidamente la frequenza di trasmissione nel corso del funzionamento split. Ah, quando sei nella posizione split, vuoi sapere la frequenza di trasmissione? Questo lo schema. Questo interruttore è particolarmente utile quando si cerca di localizzare la frequenza di trasmissione della stazione attualmente in contatto con la stazione di X. Al momento che premendo questo interruttore è possibile ricevere sulla frequenza di trasmissione, sin tanto che il tasto viene premuto, roba per la sintonia tuning può essere utilizzata quando questa tasto. Aspetta, non ho capito cosa sta dicendo. Forse già ho capito, magari leggo di nuovo, però forse ho già capito. Allora, premendo questo interruttore si potrà predisporre o controllare rapidamente la frequenza di trasmissione nel corso di funzionamento split. Quando sei spostato, split serve che ti sposti per la ricerca della trasmissione e vuoi vedere su che frequenza stai trasmettendo. Con questo tasto lo puoi fare. Se hai bisogno di trasmettere, te lo dici. Ho capito, provo a fare il controllo. Adesso provo quello XT split, quindi bisogna schiacciarli tutti e due insieme, ha detto. Aspetta un attimo, proviamo un po'. Proviamo nella 400, cosa succede? Ci sei? Salvato. Oh, Robè. Ma lo sai come funziona, lo vedi? Aspetta, ho capito. Allora, Robè. Rimani in 500, tu sei 500, no? Sì, e tu quanto sei? Allora, sono 500, come schiaccio se ne va 0,3. Aspetta che si regola il ritmo, perché cazzo non ce l'ha il ritmo questo. Eccolo qua. Allora, adesso mi sto spostando 1. Di 1 sì, no? E poi ti sento sempre. Di 1,200 se mi sono spostato. Allora, in questo momento sto trasmettendo 501,27 e ricevendo a 26,5. Tutto insieme le schiacciati? Sì. Aspetta, scusa un attimino. Adesso riscaccio XIT, XIT te lo toglie. Mi sei? Capito? Vabbè, allora schiaccia solo XIT e metti al massimo 1,2. Ci sei? Ci sei, Robè? Eia. Ma io sto trasmettendo a 26,498,72, anche tu? No, aspetta, io sono a 27, in più sono. Aspetta, torniamo indietro. Adesso. Allora, sì, ma mi senti? Aspetta, mettiamoci a zero tutto, rimetti il ritmo a zero prima. Adesso mettiamo 499 e 00, shift, aspetta, che cavolo, la regola col manuale. Ma qua mettiamo a zero, e che cavolo. Vabbè, sì, è Roberto. Si toglie questa funzione, ti spiego solo. Dimmi, vabbè. Vai ai 500, così. Sì, io sono 26,500. Quando schiaccio XIT, schiaccio solo XIT, con il RIT poi lo posso spostare di ecco, vai con il RIT, vai, allora schiacci solo XIT e con il RIT vai al massimo a 1,2, però positivo, non negativo, è più 1,2. Adesso lo mettiamo, va. Ok, vabbè, ci sei? Roberto, ci sei? Attenzione, Roberto. Attenzione, Roberto. Sì. Ci sei, Robè, mi senti? Ah, ma cosa succede? Quando li schiacci tutti e due, Salvato? No, schiaccia solo uno, Robè, schiaccia solo XIT. Solo XIT? Sì, solo XIT. Ci sei? Sì, quanto stai trasmettendo? 26,501,27, così? Eia, così, giusto. Allora, tu considera che noi stiamo trasmettendo a 501,27 e stiamo ricevendo a 26,500, come fanno a sentirti? No, che ti sentono così, però fai un'altra prova, adesso schiaccia lo split insieme. Oh, se schiaccio split insieme però vado sulla frequenza B, vedo. Vai a 491. Sì. Vabbè. Dove vai a finire con lo split tu? Ah, se metto lo speed, io su là. Io ho la frequenza A, ho 26.500, sulla frequenza B sono 6.500 con la frequenza che vado sempre in ascolto io. Capito? Allora devo cambiare anche la frequenza B, devo cambiare. Ammettiti, scusa un attimo, stavo... Dimmi. Allora, tu adesso io sto uscendo, 27, 501,27, adesso schiaccio lo split e mi regolo, mi sposto quanto voglio io, mi posso spostare anche di 100, di 200, di 300. Sì, ma tu quanto c'hai nella funzione, allora, scusa, aspetta, hai visto che c'è quel tasto, funzione A barra B, nella funzione B quanto c'hai tu? No, non lo sto, io quello non lo sto guardando, io non lo sto utilizzando, quello io sto utilizzando, la funzione è split, adesso se tu sei, allora, sì, ti siamo spostati di 1,27, l'hai visto? Sì, però se io schiaccio split e XT, vado a trasmettere sulla frequenza B che è 6.500, devo correggermi anche quella allora. È quello che ti sto dicendo, noi riceviamo per dire a 26.5, poi con lo split te ne vai a 26.512, per dire, quello che sei spostato. Aspetta che allora correggo la B, correggo, quanto l'hai messa tu la B? Dimmi quanto c'hai in B. Correggere niente, schiacci lo split, regoli dal coso, e come si chiama, il potenziometro? Salvato. Beh, ma se io schiaccio lo split, riceva 26.500 e trasmetta 6.500, perché io la B ce l'ho su 6.500. Ma tu la B non cercare quel tasto, fai come ti dico io, schiaccia lo split, tieni premuto e ti sposti a 26.450, con lo split schiacciato. Ma vabbè, non è possibile. Se io schiaccio lo split e vado sulla B, mi entra in funzione la frequenza B, mi entra. Ci sei, Salvatore? Salvatore? Oh, ci sei? Salvatore? Aspetta che adesso sto facendo una prova, fai un attimino, Allora. Fai come ti dico io, Salvatore, non sbaglio, ti faccio vedere cosa fa. Dimmi. Adesso tu sei 26.500, tondi, no? Tondi, sì, te lo split. Tutti e tutte e due. Non schiaccia lo split, tu. Ti metti a 26.450. La portata, con la portata schiacciata però. Di sì. Aspetta che sto provando robe, però non. Allora, a me, tu c'hai, leggimi sopra, VFO, VFB, come ce l'hai? VFO come c'hai? B o A? Basta, VFO A, lascia, non toccare il retto, scrivi VFO A. Perfetto, VFO A, ok, e poi? Poi fai come ti dico io. Schiaccia il tasto split e vada portante col tasto split premuto e ti metti a 26.450 e vedi che l'apparato riceve a 26.5 e trasmette a 26.450. Devi schiacciare il microfono con lo split inserito e ti sposti col VFO a 26.450. Allora schiaccio lo split e perché la portante devo inserirla? Ma come fai a portare la frequenza? Devi portare la frequenza dove vuoi andare. Capito? Riceva 450 e trasmetta 500. No. Ma l'hai fatto per ti ho detto io, adesso noi siamo su 26,5, così. Ah, parlo bene, proviamo, forse ho capito adesso, dai, sì, forse ho capito, prova 450, dai. Vedi lo spettro inserito. Va bene. Vabbè. Sì. Beh. Dimmi. Però scusa, io stavo trasmettendo a 26,450 e riceveva 500, tu non mi sentivi? No, io sto facendo così ma non ti ho sentito. Ma sei sicuro che stai trasmettendo a 450 tu? Sì, sì, a 450, amico, facciamo la prova di nuovo. E io? No? Salvatore. Salvatore. Vabbè. Oh, dimmi. Attenzione Roberto. Sì, dimmi Salvatore. Non mi sentivi? Io a 450 stavo trasmettendo, dimmi. No, che stavi andando a 500 tu. Oh, e sono in ricezione a 400, a 500, ma tu quando schiacci il PTT, cosa ti esce? 26 450? Ehi, allora, facciamo la... Ma tu l'hai messo, devi accendere lo split però, beh. Sì, acceso lo split. Sì, vai, proviamo di nuovo. Adesso siamo a 26,500 e stiamo trasmettendo e ricevendo. Adesso andiamo a trasmettere a 26,450, ok? Salvato. Vabbè. Attenzione Roberto. No, Salvato, tu non stai uscendo a 450, tu stai uscendo a 500. Ascoltando a 450, fai il contrario allora. Beh, prova a fare il contrario. Ah, aspetta, forse hai ragione. Proviamo di nuovo, aspetta. Robè, mi senti? Roberto? Roberto, attenzione. Faccia lo switch inserito tu. Oh, Salvatore. Attenzione, Robè. Salvatore. Attenzione, Robè. Salvatore. Ci sei? Robè, mi senti? Attenzione, Roberto. Salvatore. Attenzione, Roberto. Mi senti? Sì che ti sento. Ma è possibile? Scusa, come fai a dire, se io trasmetto a 450, come fai tu a dire che non mi senti? Ma tu adesso sei a 500, non sei a 450. Adesso sono ritornato a 500, quando ero a 450 non mi rispondevi. Io ti sentivo sempre a 500, Salvatore, a 450 non ti ho mai sentito. Come non mi hai mai sentito? Aspetta, ma c'è qualche cosa che stiamo sbagliando. Sono pronti? Sì, no, qualche cosa stiamo sbagliando, Robè. Dobbiamo, ascolta, adesso me ne vado a mangiare, dopo però ci studiamo, perché questa è una cosa, mi sembra strano che fai un passaggio, facciamo di nuovo una prova. Mettiti 50 senza mettere split un secondo. Ci sei? Sì, adesso siamo a 500, ci sei? Ci sei, mi senti a 500? Tu? Robè, mi senti? Senti, Robè. Sì. Sì, ci sono. Salvatore. Ma perché, scusa, a me mi appaio due no. A 500. Salvatore. E ascolto 450, o viceversa, possiamo invertirla le cose, mi. Beh. Ci sono io, ma se qualcosa la stiamo sbagliando, mi. Allora, non stiamo sbagliando. Tu mi devi dire, sul VFO, qualche numero ti segna? Adesso sono VFO A a 500. E tu a quanto sei? VFO A a quanto ce l'hai tu? 500, adesso inserisci lo split. E a quanto l'hai messo lo split tu? Aspetta che guardo. 450. Aspetta un attimo. Ci sei? Vabbè. Nulla, io non riesco a sentirti. Ti continuo, vorrei vedere se sei uscito a 450. Se fai un passaggio lungo, Salvatore. Salvatore, mi senti? Ti sento, mi sentivi? Vabbè. Ora. Mi senti, Robè? Attenzione Roberto. Hola, attenzione Roberto. Salvatore, mi senti? Sì, ti sento Robè, tu mi senti? Sì, ma c'è qualcosa che stiamo sbagliando, io e tu non riusciamo a coincidere le due cose. Ascolta Robè, lo proviamo domani che mi stanno chiamando a cenare, ok? Vabbè, ci sentiamo domani, ciao, anche io adesso vado a mangiarmi qualche cosa, ciao, buona giornata per domani, buon tutto, dai. Ci sentiamo al telefono dopo che hai sentito Media World, ok? Ciao Robè, buonanotte, a domani. Sì, ciao.